E infine alla reception. Buonasera, signorina Jenkins. Buonasera. Vorrei la mia chiave, per favore, numero 47. Ecco la sua chiave. Come sta? Bene, ma sono molto stanca. Ah, il signor Conti? Non è con lei? No, non è qui. Un uomo molto gentile, il signor Conti, vero? Sì. E anche bello, vero? Ma non lo so. Buonanotte. Buonanotte, signorina. That's the end of Unit 8. Sì, siamo alla fine dell'unità 9. Arrivederci.